set. Run it, I've been taking my bets. Front it, I've been paying my debts. Love it, I've been stealing Corvettes. Stunning, ooh, quiet unsaid. Run it, I've been fucked in the head. Front it, I ain't leaving my bed. Love it, the world's been killing me dead. Stun it, killing me, killing me, killing me. I just want to protect my energy. Ain't got no time for the frenemies. Eating my ass like a human centipede. Hold your horses, pick it up. What's better than two girls, two cups? What's better than a two-bite good night? What's better than fries and a chicken lunch? Hey guys, should I post made Chuck E. Cheese? Wait, ain't no Chuck E. Cheese in Los Feliz. Wait, there ain't no steez if there ain't grease. Unless you ordered that sugarfish sushi. Oh, quiet on set, run it. I've been taking my bets. Run it, I've been paying my debts. Love it, I've been stealing Corvettes. A quiet unsaid, run it. I've been fucked in the head. Run it, I ain't leaving my bed. Love it, the work been killing me dead. Bang, bang. Killing me, killing me, killing me. Oh, oh, killing me, killing me, killing me. Oh, yeah. I don't got things to say. I'm so bored, I'ma pass away. Going off the deep end like Fouché. I'm cracked the surface, creme brulee. Don't. Quiet on set. Run it, I've been taking my bets. Run it, I've been paying my debts. Love it, I've been stealing Corvettes. Stunning, ooh. Quiet on set. Run it, I've been fucked in the head. Run it, I ain't leaving my bed. Love it, the world's been killing me dead. Bang, bang. Le 19.03 sta per iniziare l'ultima puntata di questa stagione di Likewise ed è per questo che vi abbiamo fatto ascoltare finalmente Remy Wolf con Quiet on Set per tutto il tempo dalla Salga e Pinco per un'oretta di musica insieme. Quindi noi staccheremo con il programma, però voi potete scriverci per tutta l'estate a likewise@ondarossa.info, mandateci le vostre canzoni preferite dell'estate, suggerimenti per la nuova sigla, lo sapete, abbiamo avuto Sampa dei Great, quest'anno ci ha fatto accompagnare Mi Wolf e comunque non abbiamo ancora scelto, deciso, pensato a chi ci farà compagnia l'anno prossimo. E comunque sugli 87.9 di Radio Onda Rossa o in streaming su ondarossa.info i programmi vanno avanti ancora per un pochino, insomma, quindi diciamo c'è sempre tanta musica, tante belle cose, tante cose importanti da ascoltare, anche se Likewise si ferma. Esatto, anche se Likewise si ferma, la radio invece non si ferma mai e questo voi lo sapete e ha sempre bisogno di voi, anche questo lo sapete, e se è finito il radio abbonamento, ma voi sapete anche che dal sito ondarossa.info trovate i modi per sostenere la radio sempre, tutti i giorni. Comunque c'è scritto grande grande radio abbonamento, quindi no, quello penso che sia finito forse perché sono passati 10 giorni, però c'è scritto sostienici, sostienici, cioè comunque sul menu c'è, esatto, lo trovate. Esatto, esatto, applicatevi. Stasera mute stiamo. Mute siamo perché ho voluto fare una scaletta di 12 pezzi. Dopo ci sono Note Cose Città, anche loro con l'ultima puntata della stagione, quindi 19.04, go! Loro si chiamano Wisp, Your Face. E cominciamo con un po' di shoegaze, come piace a me. No, perché poi magari ne avete nostalgia pure voi quest'estate come me. C'è un bel po' di roba questa settimana, insomma, che non volevamo farci scappare. Di Wisp, che appunto l'artista che avete appena ascoltato, non sappiamo nulla in realtà. Cioè, no. Non c'è nulla. Ah, ok, allora non ero io che non eri riuscito. Tu che non hai fatto buone ricerche, ma in realtà non si sa nulla. Considerate che sul suo Bandcamp... Cioè, praticamente ti ha chiamato a te, ti ha detto, senti, ho fatto questo disco, che me lo mandi in onda, Radio Onda Rossa. Ma ha chiamato l'amica in realtà, perché appunto è l'amica dell'artista di San Francisco, è l'unica cosa che sappiamo, che ha scritto questi due pezzi che sono usciti, che avete ascoltato, è Tangled Dreams, che è in sottofondo e che sarà nella nostra B-side, dicendole che aveva dovuto dire che è un artista, che Wisp è un artista fantastica, che aveva dovuto ricordarle lei di farsi un Bandcamp così per farla ascoltare la sua musica. Quindi insomma ci piaceva anche cominciare con qualcosa di molto sconosciuto. Molto sconosciuto, che si vedrà, magari anche noi, che ne sai, riusciamo a lanciare qualche artista come fanno i veri disc jockey. Sì, le vere di Jane del mondo. In realtà è questo anche un modo per dirvi che la radio ascolta anche tante cose, è una cosa che vogliamo ricordarvi, a volte ce lo scordiamo, ascolta anche le cose che ci proponete, non solo di artisti che sono già in giro, ma anche le cose che fate voi. Insomma, ogni tanto ci arrivano delle proposte e insomma proposte, in realtà non facciamo nessuna, non c'è una giuria diciamo musicale, no, insomma, fortuna, se già ce ne sono troppe in giro. Esatto, ma se i vostri testi, insomma il vostro progetto è un progetto che comunque diciamo va in sintonia con quella che è la diciamo la filosofia della radio, che conoscete bene, assolutamente sarete passate. Prossimo pezzo? Loro si chiamano Been Dead, Muriel's Day Off. Don't care. Okay. E questi erano quei mattacchioni di Been Dead con Muriel's Day Off. Si vede che è una di quelle band che dici, questi sicuramente quando suonano si divertono moltissimo, anche perché insomma sono migliori amici, stanno da sempre insieme, vivono insieme, fanno tutte le cose insieme, quindi insomma ti divertono tantissimo. Speriamo che non litighino. Speriamo che non litighino. Questo pezzo è tratto dall'album When Horses Would Run, che uscirà il prossimo 14 luglio per la Bayonet Records. Sì, insomma, è l'album di debutto. Infatti, esatto. Sembrano peraltro super navigati, invece navigano solo bene le note, però non sono super navigati perché questo è l'album di debutto. Loro sono, insomma, sono amici da una vita, ma hanno iniziato questo progetto musicale nel 2016, quindi non da tantissimo. Sì, anche se si sono fatte le ossa, insomma, in giro a suonare tantissimo. Infatti, sono un po' iconici, iconiche diciamo, dalle parti di Austin da dove vengono, perché comunque insomma sono abbastanza conosciuti. Sì, tra l'altro leggevo che comunque nel live anche lì fanno un macello, che secondo me è un po' come a studio, nel senso che lei si mette a suonare la batteria al posto di lui suona la chitarra, fanno tutta una serie di giri anche di strumenti, un po' come gli ci hanno voglia, va. Come ci hanno voglia, esatto, come piace a noi, esattamente come piace, esatto, a noi. Sei pronta per il prossimo pezzo, Pinklo? Sì. Allora, questo disco che è uscito in realtà qualche mese fa, che devo dire era girato e rigirato, penso sia tra gli ascolti miei che di Donna, però poi non era mai finito in scaletta, quando ho visto che boom, è arrivato, ho detto, beh dai, è giugno, forse sarà arrivato anche il momento di Miss Grit con Your Eyes Are Mine. E questa è la Miss Grit, Your Eyes Are Mine, dall'album Follow the Cyborg, uscito per la Mute il 1 marzo scorso. Che secondo me le nostre ascoltatrici più attenti alla frase Follow the Cyborg potrebbero drizzare le antennine. Penso. Dici, tantissima St. Vincent, almeno da un punto di vista dell'arrangiamento musicale, degli strumenti, diciamo di questa mistura un po' elettronica, un po' suonata, quindi evidentemente una bella, diciamo, base di conoscenza da parte della signora Margaret Son, che è appunto poi la persona che si cela dietro questo pseudonimo. Alter ego Cyborg, esatto. Che è rigorosamente non binario. E comunque sì, vabbè, immagino che l'avrete capito, anche perché quando si dice Cyborg, Donna Haraway è un attimo, boom, boom, è una connessione immediata, ed è una frase che è uno slogan, insomma, che si trova dentro anche il manifesto Cyborg. Che se non avete letto, c'è sempre tempo, mo' è estate, magari c'è qualcuno che ha un tempo un po' più lento, quindi perché no? Comunque lei è un bel personaggio. Un po', sì, esatto. No, raccontiamolo un po'. Vai. Lei è una polistrumentista, perché lo sapete, da Likewise, polistrumentista e multitask on nothing. Okay. Allora, è 24enne, quindi è giovanissima, è coreana-americana, è nata nei sobborghi, diciamo, bianchi e conservatori di Detroit, e ovviamente... Pensa che culo. Esatto, ed è quello che esattamente ha detto lei. E quindi, insomma, infatti lei ha detto, poi quando ha incontrato il femminismo, il cyborg e Donna Haraway, insomma, tutto è andato un po' meglio, non stentiamo a crederlo. Il suo progetto artistico nasce nel 2018 e ha fatto tantissime cose prima di approdare, insomma, a questo suo lavoro che è uscito per un'etichetta di tutto rispetto e molto pregiata come la Mute. Esatto. E tra l'altro anche tante collaborazioni e, diciamo, apparizioni che ci piacciono molto, World Paint, Momma, insomma, secondo me questo album, se ve lo siete perso quando è uscito o non ci avete prestato tanta attenzione come abbiamo fatto anche noi in un certo senso, sì, recuperatelo, appunto, cioè avete anche tempo, l'estate, i tempi un po' più lenti, speriamo, ci auguriamo anche per voi, e quindi insomma si può fare. 06 49 17 50, se volete comunicare con la radio adesso e in qualsiasi momento, esatto, da qui in poi. Noi siamo in diretta, questo è Likewise, è il 27 di giugno, sono le 19:21, perché questa è la cosa bella della diretta, che è tutto confermato. Salutiamo chi ci ascolta in podcast, quindi che ha un diverso tempo. E volevo dire che la batterista, tu stavi dicendo, non solo la batterista ci ha collaborato, ma la batterista delle Warpaint suona proprio sui brani di questo disco qua. Esatto. La nostra, se a noi non piace. Una delle nostre stelle preferite. Esatto. Prossimo pezzo, loro si chiamano Snoop Pod. Quello è sempre lo scherzo delle band punk, poi boom, Boom, finiscono. Snooper con il pezzo Pod, sono usciti, ci hanno dato occasione di farvele ascoltare, visto che sono usciti due singoli da EP, che insomma dai due EP che hanno fatto insomma negli anni passati, tra il 2021 e il 2022, e quindi insomma abbiamo pensato di farvele ascoltare per farve conoscere, se non vi è capitato, sì, ancora. Sì, anche perché comunque uscirà l'album nei prossimi mesi, adesso non mi ricordo più quando, però l'avevo letto, che si chiama Super Snooper. Che sarà l'album di debutto per la Third Man Records, quindi direi che siamo sicuramente, ripasserà in autunno da queste parti, anche perché hanno un sound, cioè hanno un bel modo di registrare i pezzi, secondo me molto pulito, cioè si sentiva tantissimo bene la linea di basso, la batteria, anche la batteria aveva un suono molto pulito, molto in primo piano, molto bello. Come piace a te, Pinclo. Yes. E quindi noi siamo sempre sul pezzo, vi facciamo ascoltare cose che stanno per uscire, ricordate, insomma, Likewise è anche questo, insomma, vediamo. Che stanno per uscire, che usciranno, qualcuno addirittura di quelli che metteremo stasera uscirà in autunno, in settembre, fine settembre, ma... A forse avremo tempo di farveli ascoltare. Esatto. Prossimo pezzo, lei si chiama Samana, Seven Years. Thank you. E questa è la storia. Comunque questo che entra è il ventilatore. È il ventilatore, sì. Non è la canzone. Non è la canzone. Seven Years del duo Samana. Questo è un singolo tratto dal EP Dharma che era uscito il 31 maggio scorso. Allora, per la che Road dire? Records. Very good. Quattro tracce. Vabbè, loro diciamo che non sono un duo musicale, loro sono proprio un duo artistico, mi viene da dire, perché esatto. Fanno poesia, fotografia, arte e poi fanno anche musica, insomma, tutto insieme. In quel del Galles. Sperduti. Esatto. In quel del, dove si sono autocostruiti uno studio di registrazione nel mezzo del nulla, in the middle of the nowhere, come mi verrebbe da dire. E lì stanno e si vede un po', cioè un po' si sente in realtà, perché se poi ascolti l'EP dici vabbè, ma questi dove sta, ma da dove state chiamando, uno gli vorrebbe dire, scusate. Esatto. Effettivamente si vede che stanno proprio su un'altra vibrazione da altre parti, cioè con un altro proprio diciamo panorama che... intorno a loro in qualche modo. Come dicevamo anche nel fuori onda, ci sono alcuni pezzi che sono girati un po' nelle nostre playlist, come vi abbiamo raccontato più volte, noi durante le settimane abbiamo tanti ascolti diversi, perché likewise anche questo, e poi li infiliamo in una playlist comune dalla quale poi tiriamo fuori le cose, siamo, che... togliamo, cambiamo i brani. Esatto. E Samana aveva girato per un po' in qualche modo, e in questa playlist che devo dire è un po' più, diciamo, era troppo allegra adesso, esatto. Quindi ho detto, era un po' troppo allegra, quindi abbiamo pensato di no, ma secondo me è un bel lavoro comunque, a parte, esatto, che è un EP, quindi è un po' poco, però è un lavoro molto particolare ed effettivamente ti trasporta in un'altra dimensione, perché è vero, loro hanno registrato questo lavoro e stanno comunque in questo posto abbastanza sperduto dentro la natura, immagino, e quindi questa cosa si sente comunque. Il prossimo pezzo invece è proprio tutt'altro. Free Love, Open the Door. Free Love, Open the Door. Il 16 giugno è uscito un mini EP contenente il pezzo All the Same to Me, che è un altro pezzo, lo state ascoltando in sottofondo, con due remix dello stesso pezzo. E noi, siccome ce ne fottiamo altamente, abbiamo scelto un altro pezzo da farvi ascoltare. Massimo. No, quello proprio, se cercate, non sempre, diciamo che non è vero che non ne mettiamo mai, però spesso non mettiamo né le title track, né i singoli, né, spesso mettiamo i b-side dei singoli, quindi vabbè. Assolutamente, Free Love era contenuto. O comunque contenuto. Le canzoni del disco che ci piacciono di più dentro il disco di 10-12 tracce. Esatto, contenuto nell'album Inside, che è una, del quale un'edizione speciale è uscita a febbraio per la Lost Map Records, che è un'etichetta indipendente che si trova sull'isola di Egg in Scozia, che si scrive E-I-G-G. E vi invito ad andare a vedere la storia di quest'isola, perché è veramente una cosa assurda, cioè dell'isola. Raccontacela. E il fatto che ci sia un'etichetta su quest'isola, insomma. Beh, d'altra parte la musica che fanno loro ispira una certa giocosità e gioiosità. E la cosa divertente, e che magari potrebbe interessare anche alcune di voi, è che loro hanno sempre un open call su quest'isola, hanno una barca parcheggiata in una, diciamo, in una piccola baietta, dove ospitano artiste e artisti, artistu, per un, diciamo, un residenziale, per cui poi ma non li ospitano i DJ pure? Andiamo, scusa, possiamo andare noi, dici? Diciamo, chiediamo se hanno bisogno di qualcuno che conduce delle trasmissioni radiofoniche per l'isola. Ti infilano nella barchetta isolata e poi devi stare lì un po' di tempo a fare quello che te pare, insomma, senza, diciamo, limiti e senza, diciamo, nessun tipo di, insomma, formalità, ecco, fondamentalmente. Ed è una delle cose che hanno fatto appunto Free Love. Ma l'isola, la storia di quest'isola è molto interessante, vi consiglio davvero di andarla a spulciare, io l'ho scoperta adesso. È un'isola che sta a 10 miglia al largo della costa scozzese. E fondamentalmente è un'isola privata, comprata da un tipo negli anni 70, poi una serie di vicissitudini che non sto a raccontarvi, finché a un certo punto quest'isola è stata messa all'asta e le persone che ci vivevano l'hanno comprata, hanno fatto un grande crowdfunding e sono riusciti a comprarsela. Quindi quest'isola è privata, ma in realtà è un'isola collettiva dove tutti fanno tutto, insomma, contribuiscono a far funzionare quest'isola. Non c'è polizia, non c'è controllo, non ci sono, come raccontavano alcuni delle persone intervistate, ci sono crimini, che devi fare? Tanto se fai una cosa stai qua e quindi ti becchiamo subito. E poi è un'isola, quindi. Esatto, quindi insomma fondamentalmente tutto si risolve molto facilmente, c'è una bellissima atmosfera e quindi una buona atmosfera. Vabbè, anche... forse ci andiamo, dai, prima o poi fammo una gita pure noi, anche per questa etichetta che si chiama Lost Map, insomma, giustamente. Pezzo numero 7 della scaletta di questa sera, sono le 19:39. Questa è Likewise, la sua puntata numero 60. Ho contato che questa stagione abbiamo fatte 30, quindi tutti i numeri pari. Non so se ve li volete giocare. Se vi dice bene, fatecelo sapere. So Scared Ciel. Tell So Scared, Bandy Brighton, che diciamo ha lanciato questo secondo, mi sa, singolo da, tratto dal prossimo EP, che sarà sempre il secondo EP, che si chiamerà Make It Better e uscirà il 7 luglio via Jazz Life. Allora, Michelle Hendricks, stavamo dicendo in, diciamo in fuori onda, che è l'autrice dei testi, la cantante, la nonché bassista, un'appassionata di sintetizzatori. Ed è voce, e voce ne ho un po', una bella collezione. E voce basso di questo progetto, di questo trio. Questa canzone, spesso tu parli dei testi delle canzoni, questa canzone So Scared parla, come potete immaginare, di quando ci si sente vulnerabili rispetto ad una relazione, quindi all'aprirsi con, in una relazione con un'altra persona, e però al, diciamo al desiderarlo comunque, perché aprire la propria, mostrare la propria vulnerabilità è sempre una cosa anche bella. Esatto, è quello che dice la cantante stessa, ma insomma, perché bisogna essere in grado di essere vulnerabili, dice lei, e dice che la canzone è nata con una sola linea di sintetizzatore dal suono carino e con la parte vocale sopra, e poi in studio insomma la, ci hanno arrangiato sugli altri strumenti, però è nata in maniera molto semplice semplice. Prossimo pezzo, piccolo. Prossimo pezzo, Greenhouse, cambiamo di nuovo genere, lei è Amin D. Questo era Mindy con Greenhouse. Corto da questo pezzo, vero? Sì, te l'aspettavi vero. Un po' più no, lungo. No, poi anche quando l'ho ascoltato a casa mentre riascoltavo la playlist, ho detto, ma che è finito? Ma che è finito? Ebbene sì. Insomma, giovane, giovanissima artista, questo singolo è uscito il 16 giugno scorso, quindi da pochissimo. Artista, diciamo, di Los Angeles, con origini giamaicane, tantissime influenze nella sua musica, però insomma anche un bel R&B che piace a Pinklo, che sta ballando, ve lo dico. Ha iniziato la sua carriera da adolescente addirittura, mettendo i suoi brani su SoundCloud già ai tempi del liceo. I suoi genitori, che sono entrambi nati a Kingston, hanno sempre suonato a casa. Suo padre amava Sizzla e Bob Marley, sua madre suonava Kirk Franklin e Ezekiel Walker. Insomma, ha 9 anni però lei, questa cosa è una cosa divertente tra a proposito dell'influenza, a 9 anni lei ha conosciuto Santi Gold. Detto ammazzo! Esatto, che è quello che abbiamo detto anche noi, ed è rimasta affascinata da questa vocalist che sfidava, insomma, che sfida i generi fondendo reggae, dub e pop per creare un suono ben distinto. Io l'ho messo un sacco di volte, Santi Gold, a me piace tantissimo. Chi ha visto The L Word forse se la ricorda pure, qualche apparizione che l'ho dato fuori. Ho capito, è vero. E lei dice infatti: non avevo mai visto una donna nera fare quello che faceva lei e il tipo di musica che faceva, mi ha aperto la mente, è stato il primo esempio che ho visto dell'esistenza di una donna nera alternativa, ha detto. E voglio essere, ha detto lei, la Santi Gold di qualcuno, voglio essere la Santi Gold di qualche bambina. Quindi noi ti facciamo i nostri auguri a Mindy, diciamo che già sei sulla buona strada. È divertente, però a me piace moltissimo quando trovi nelle interviste di queste giovanissime questi diciamo modelli che sono comunque per noi abbastanza vicini, tra l'altro, diciamo, vicini, no? E che sono che noi siamo un po' grandi. Wow, è bellissima questa roba. Che noi siamo un po' grandi, loro sono molto molto giovani. Quindi questa è musica che in realtà poi ha invece noi ci ha accompagnato negli anni della adolescenza, post adolescenza, crescendo, e quindi sì, siamo contenti di ritrovarle. Questo l'ho pensato pure io, ho detto: "Ah, vedi. Prossimo pezzone, vai. Prossimo pezzone è Sunflower, Nabiha Iqbal. Me, sweet golden one, I am lost in your mystery, so gentle, so deep. You left your soul on the earth, you left without knowing its worth. I knew it was love, and I felt it was glory, but you never told me story. I knew it was love, and I felt it was glory, but you never told me the end of the story. Meet me under the sunflower, find me there in the golden hour. Meet me under the sunflower, steal a kiss, feel the power. Meet me under the sunflower, find me there in the golden hour. Meet me under the sunflower, steal a kiss, feel the power. Golden hour. Nabia Iqbal con Sunflower, tratto dalla, diciamo, dal lavoro, dal suo ultimo lavoro Dreamer, che è uscito con la Ninja Tune da pochissimo, da aprile. Nabia è un personaggio molto interessante, una DJ, è una host scrittrice di radio, di programmi radio NTS, yes, come resident anche BBC, ho letto, e qualche volta si infila alla BBC e le fanno fare delle cose. Quest'anno è stata anche direttrice del Brighton Festival, che è un, insomma, importante festival, e comunque lei è avvocata, vero, ha anche esercitato per un po' e poi, esatto, ha detto vabbè, anche mi do meno alla musica, anche meno. E diciamo, questo Dreamer è stato un po' un parto fondamentalmente molto molto difficile per lei, nel senso che leggevamo appunto nelle interviste che sono uscite un po' di tempo fa che fondamentalmente aveva un sacco di materiale pronto per uscire poco prima del lockdown, ma a un certo punto, poco prima del lockdown, praticamente poco prima che, insomma, si fermasse il mondo, ha subito un furto nel suo studio di registrazione, e quindi tutti i materiali che aveva registrato sulle sue computer, disc, eccetera eccetera, oltre alle strumentazioni che aveva accumulato, è svanita nel nulla. Ma fatevi server. Ma come se non bastasse, e come se non bastasse, dopo questa bellissima, diciamo, esperienza, parte per il Pakistan, perché insomma parte della sua famiglia è di origine pakistana, e no, tutta, cioè nel senso padre e madre, quindi da, più o meno tutta, che ne sai, c'ha uno zio no, di, no, Brooklyn, certo, non so, ma quello è bello. Parte in Pakistan per, diciamo, andare a trovare il nonno, comunque, che non stava bene, e rimane bloccata a causa del lockdown in Pakistan. Quindi, insomma, però la bella abbastanza notizia è che il nonno non è morto, mi hai detto. Non, esatto, il nonno non è morto, si è ripreso, che meno il lockdown male, evidentemente ha fermato tutto, e lei ha ricominciato a scrivere. Ecco perché dal debutto, che è stato nel, esatto, 2017, questo disco esce nel 2023. Ah, peripezie varie. Peripezie varie, poi c'ha anche tante altre cose da, no, fare. Esatto. Quindi, insomma, non è che fa. No, infatti io avevo pensato più quello, perché ho detto vabbè, lavora all'NTS, poi lavora alla BBC, eccetera. La musica sarà una parte delle cose che fa, quindi ci ha messo un po' no, di no, più. Quella ce l'aveva proprio. È che. E vabbè, dai. Però alla fine mi sembra che è arrivata in porta e che il disco sia bello da ascoltare, quindi ve lo consigliamo. Si chiama Dreamer, è uscito ad aprile del 2023, quindi lo trovate in giro. Sono le 19:55. Note, cose, città ancora non si vedono. Noi abbiamo sfrontatamente altri due pezzi, perché vogliamo arrivare al 12, così proprio senza colpo ferire. Quindi proviamo a mettere almeno il decimo. Forse dai, il 12 non so se ci arriviamo. Giorgia. Sì, Georgia Smith, Try Me. I'm girl to please somebody else other than your needs. You got a lot left on these seats. Your heart's not on your sleeve. Try to believe me though. Gotta listen, gotta learn, gotta live, gotta fight, gotta earn. And your mind's made up. I say your mind's made up. George Smith, Try Me. George ha tirato fuori questi due pezzi che preannunciano il suo nuovo album in uscita a fine settembre, che si chiamerà Falling or Flying. Quindi c'è tempo, come si suol dire. Sì, diciamo che lei esce fuori un po' dal nostro solito giro, sì, di raccolta di, insomma, artiste che ci interessano. Però vabbè, una voce interessante secondo me. Cantautrice britannica, le sue prime pubblicazioni risalgono al 2016, ha debuttato nel 2018 con Lost and Found. Il disco che uscirà a settembre sarà il suo secondo disco, quindi Falling or Flying. E sì, vabbè, un po' l'avete sentito, poi si muove tra R&B, più che altro R&B. Anche lei tra per R&B è proprio però anche lei, no, a proposito, perché questa cosa dell'influenza oggi mi era ritornata due volte ed è lei la seconda persona per cui mi è ritornata, perché da adolescente lei dice di aver ascoltato assiduamente l'album di debutto di Amy Winehouse, Frank, del 2003, e si è ispirata all'approccio schietto della cantante nella scrittura dei suoi testi. Quindi comunque, appunto, parliamo di artiste che, insomma, sono anche abbastanza giovani, però c'è una continuità più stretta, vedo. Questa è una cosa molto interessante. Se sentite Pinklo con questo tono un po', diciamo, come dire, più morbido, è che perché fa caldo. Esatto. Quando fa caldo Pinklo, quando fa così, caldo, come tutti quelli del sud sanno, bisogna sprecare il meno energie possibili, perché più ne sprechi è peggio è. E più sudi. Esatto. La prossima band si chiama Be Your Own Pet. Io sono molto felice che sono ritornate con questo album che uscirà il 25 agosto, Worship the Whip. Get on your knees. meno notevole ci lasciano Beyond on Pet con Worship the Whip. Come dicevo, il 31 maggio hanno annunciato che, insomma, dopo molti anni dalla, diciamo, dalla pausa che si era presa questa molti band anni. Molti anni, sì, dal 2008 in pratica, diciamo, hanno deciso di fare un nuovo album. Quindi avevano fatto una reunion l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo bene, insomma, si erano messi insieme, ha cominciato nel 2021, benissimo, due anni fa, e poi appunto annunciato per la Third Man Records, tra l'altro, di cui abbiamo già parlato oggi, il prossimo album, che si chiama Mammy, e uscirà il 25 sì, agosto. Se sono riuniti dopo 14 anni per espressa richiesta o comunque desiderio, immagino, di Jack White, musicista e cantatore americano conosciuto perché facente parte dei White Stripes, mentre loro invece, a proposito sempre di storie di sessismo e misoginia nella musica, avevano fermato, diciamo, il loro andare in giro e produrre dischi dopo la produzione del loro secondo disco del 2008, Get Away Award, perché hanno detto che Jemina Peele era, insomma, abbastanza sotto pressione anche da un punto di vista, appunto, del sessismo e della misoginia, e non ce la faceva più, quindi hanno detto basta. E a proposito di questo, ringraziamo l'ascoltatrice che ci ha chiamato durante, appunto, il pezzo che andava in onda, e come spesso succede, di questo noi siamo super orgogliose, perché vuol dire che chi ci ascolta è super attenta, super attenta, super attento, e che arricchisce anche le cose che magari non abbiamo detto, che ci siamo scordate o che non abbiamo visto. E ci ricorda che Jojo Smith, che avete sentito prima, sì, è vero, insomma, spesso i testi parlano di relazioni, sentimenti, eccetera eccetera, ma ci ricorda di ricordare che in realtà Jojo Smith ha scritto anche delle cose un po' più impegnate. Una di queste è sicuramente il pezzo By Any Means, penso che a questo ti riferivi, ascoltatrice che ci hai chiamato, credo che sia questa la canzone a cui ti riferivi, che è stata scritta, appunto, insieme a Ezra Roberts Gray, e che fondamentalmente sarà ispirata alle vicende, alle questioni che conosciamo benissimo, e alle proteste legate al movimento Black Lives Matter, ma insomma in realtà legate a diciamo un'esplosione di rabbia nei confronti, appunto, della polizia e del modo di diciamo della profilazione razziale, del modo di fermare, trattare, ammazzare, aggredire le persone nere in America, ma non solo in America, in tutto il mondo. Altri pezzi, ci ricordava, ci sono di Jojo Smith, che comunque parlano anche, per esempio, della discriminazione di genere, se vogliamo dire, delle difficoltà che le donne continuamente hanno, soprattutto in certi ambienti, nella musica ne parliamo molto spesso, e soprattutto in certi ambienti musicali, come può essere quello della scena rap, hip hop, R&B, dove appunto devi essere in un certo modo, devi presentarti in un certo modo. Jojo Smith, per esempio, anche pur essendo, insomma, molto bella, spessissimo va alle interviste senza trucco, completamente, anche per dare immagini diverse di se stessa, anche questa è una parte importante. Quindi, insomma, grazie mille di ricordarci delle cose che magari non abbiamo detto, che non sappiamo, che insomma è una cosa bellissima questo scambio. È una cosa bellissima questo scambio, che ci porta alle 20:07. Comunque volevo dire che anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto di fare Likewise è questo, nel senso che è una scelta, non è che io e Dona personalmente non ascoltiamo anche artisti uomini o tanta altra musica nella nostra vita, però appunto è una scelta un po' politica di fare un programma musicale che mette in luce l'arte, le musiciste, le chitarriste, le sound engineer, le producer e tutte quelle, insomma, che lavorano nel campo della musica, che molto spesso rimangono un po' nell'ombra, che fanno sicuramente molta più fatica a venire fuori. Ma noi allora, note cose che ci è arrivato, ma noi ce ne preghiamo, ce ne votiamo? Dai, sì. Pezzo numero 12 della scaletta di stasera, giusto perché vi salutiamo. This one, la sécurité. La Sécurité di Moi dall'album Stay Safe, uscito il 16 giugno scorso. Che sono canadesi, comunque non so francese. La Mothland, sì, canadesi cantano in inglese e in francese. Parlano del Canada francese. Le notizie su questa band molto molto figa, ve le cercate da sole. Ve le cercate da sole, avete tutta l'estate per cercarvele. Vi possiamo dire che loro sono un super gruppo punk, nel senso che si sono messe insieme alcune delle figure della scena indie rock e post punk della città di Montreal e hanno deciso di lavorare insieme. Ovviamente fanno tutto, cioè come al solito fanno i video, si fanno la musica, fanno i dischi, si fanno l'art, quello eccetera eccetera eccetera, come piacciono a noi. Condividono l'etica del movimento delle Riot Girl e celebrano l'autonomia delle donne, quindi non potevamo trovare band migliore per chiudere la seconda stagione di Likewise. È fatta, sono le 20:11, noi siamo in straritardo, ma tanto erano in ritardo anche loro, quindi che ce frega, soprattutto. Allora, vi diciamo che potete scriverci likewise@andalossa.info, che potete continuare ad ascoltare la Radio Onda Rossa, che se vi manchiamo ci sono i nostri podcast su www.ondarossa.info. Vabbè, e poi anche meno, cioè, poi anche meno. Ascoltate le cose nuove e mandatecele a noi. Ringraziamo tantissimo tutte le nostre ascoltatrici, ascoltatori che ci hanno scritto, mandato messaggi, incontrato per strada, ci hanno detto oh, bella la trasmissione, vi ascolto sempre. Grazie a tutte e tutti quelli che ci ascoltano. Ci risentiamo a settembre. No, noi facciamo una cosa il 30. Ah, noi facciamo una cosa il 30, è vero. Siamo loro fanno. Noi andiamo a suonare. Esatto. Noi andiamo a suonare il 30 ed è l'ultima cosa che facciamo, diciamo, prima dei mesi propriamente più caldi della stagione. E io non ho la locandina. E tu non hai la locandina, ma sulle nostre pagine comunque da qualche parte c'è. Penso forse siamo ad Aura e Marco comunque per la serata organizzata dal gruppo dei collettivi che sta facendo le passeggiate transfemministe, diciamo, nello spicchio Sorema, nello spicchio di Roma Sud. Quindi siamo a Spinaceto da Aura e Marco, ci trovate il 30 giugno, non solo noi, per fortuna vostra, soprattutto autoproduzioni, magliette eccetera eccetera, quindi passateci a trovare a Spinaceto il 30 giugno, ci rivediamo, ci risentiamo da questi microfoni a settembre, buona estate a tutti, spero che lo sia nel miglior modo per voi, ciao! Ciao. And I